Nicola, buongiorno. Buongiorno. È stato, diciamo, fornitore di divano o ha usufruito di divani altrui? No, io ho praticamente tramite un amico ho usufruito dei divani altrui e abbiamo ospitato a Venezia, più precisamente alle Vignole, parecchie turiste che erano interessate. Insomma. Turiste interessate, lui ha specificato anche il genere? Sì, turiste, soprattutto turiste, perché nel couchsurfing c'è la possibilità di scegliere se ospitare coppie o donne o uomini, insomma. Ah, quindi uno può scegliere, cioè, io voglio solo donne, a casa mia il divano è solo per donne. Sì. Si è trovato bene? Molto. Va bene. Abbiamo conosciuto molte ragazze, sì. Ma abbiamo molte chi? Ragazze. Lei con chi? Assieme a chi? Io con il mio amico che ospitava. Beh, siete, avete trovato una maniera provolonica di mettere, cioè di riempire il divano di signore e signorine, praticamente vi pagano pure. In realtà non è, no, in realtà è tutto assolutamente gratuito, non si riempie quasi mai il divano, bensì una camera per gli ospiti, quindi il divano... Sì, perché io penso, ma a voi cosa ve ne viene di ospitare una persona a casa? Ma guardi, al contrario di quello che si può pensare, che magari per secondi fini, di solito si ospita proprio perché poi comunque ci vuole essere ospitati. Ma l'intima d'azione mi è venuta, sinceramente? Sì. Vede, quindi allora qualcosa ve ne viene in cambio, non è che proprio si fa sì, gratuitamente. No, guardi, non è solo quello. No, chiaro, è chiaro, esiste... Lo si fa soprattutto perché poi comunque si vuole avere l'aggancio all'estero. Questo è il principio per cui noi abbiamo cercato di usufruire appunto del couchsurfing per appunto poi essere ospitati all'estero e diverse possibilità ci sono aperte. Così c'è pane companatico, come si dice dalle mie parti. Sì,